Sai, pensavo che fosse più facile. Mi dicono ridi, vedrai che in fondo è più facile. Ma ogni volta che parto torno indietro, sempre con meno. Per cui non credo che tu abbia trovato di più. Fino in fondo forse ci spero e tu lo capirai. Fino in fondo a me forse ci spero che tornerai. Sai, pensavo che forse è normale lasciar scivolare le cose, non farsi del male. E ogni volta che guardo al mio tempo che non mi hai ridato, scopro che l'amore a volte è un fuoco bruciato. No, no. Fino in fondo forse ci spero e tu lo capirai. Fino in fondo a me forse ci spero che oh. Porta il tempo sprecato dei giorni di sole che ora non hai. Per cui spero tu abbia pensato che io sono qui a guardare la luce ammaccata dell'ombra di chi non sa il male che mi fa la felicità. La felicità, la felicità.